Strip Trip, un viaggio nel mondo dei fumetti con Alessandro Chiarella. Bella ragazzi, buonasera a tutti e bentrovati con la seconda puntata di Strip Trip. Io sono Ale e intanto ci tengo a ringraziarvi tutti quanti perché la prima puntata è stato un successone, talmente tanti accessi che il sito è andato down, quindi veramente avete spaccato. Mi raccomando, anche stasera giù secco. Allora, questa sera ripartiamo di nuovo a tema con Toffolo. Parliamo di Toffolo, che è un disegnatore italiano, appunto, molto molto impegnato, perché oltre che disegnare è anche un cantante e chitarrista. Qualcuno sa già di che gruppo, e ha lavorato anche per il teatro, ha fatto un sacco di cose e appunto canta e suona nei Tre Allegri Ragazzi Morti. Tre Allegri Ragazzi Morti, di cui cura anche tutta la parte grafica, i video, le cover dei CD, insomma è veramente veramente super attivo. Oltre che suonare e cantare nei Tre Allegri Ragazzi Morti, nel 94 ha cominciato pure a pubblicare fumetti. Insieme a questi fumetti è cominciata pure la carriera dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Il gruppo ha cominciato con un paio di dischi e poi ha addirittura fondato un'etichetta, l'etichetta che si chiama La Tempesta Dischi, di cui adesso fanno parte anche Le Luci della Centrale Elettrica, Il Pan del Diavolo, Aucan, che sono tutti gruppi che comunque vi consiglio di ascoltare perché sono molto in linea con i Tre Allegri Ragazzi Morti e con lo stile soprattutto di Toffolo. Dicevamo di Toffolo, i suoi disegni, il tema principale, come per le canzoni di Tre Allegri Ragazzi Morti, dei fumetti è l'adolescenza, i problemi che hanno i giovani in quell'età, i cruci, i grandi problemi d'amore, magari le grosse perdite. E beh, sono tutti argomenti che ritroviamo anche nelle canzoni che Toffolo ripropone sempre e comunque. Parleremo del primo dei suoi fumetti tra poco, che appunto è molto basato su queste tematiche. Transit. bella ragazzi, questi erano gli Akhtar Akhtar con Lost in Transit. Spettacolo, a me è piaciuto abbastanza, ricordano un po' gli Arctic Monkeys, ma beh, bella bella. Stasera Pozzi, il nostro direttore artistico, ha fatto una selezione di pezzi veramente al top. Parlando di musica, parliamo dell'ultimo CD dei Tre Allegri Ragazzi Morti, che si intitola Nel Giardino dei Fantasmi, uscito da poco, mi sembra dicembre, e io gli ho dato un'ascoltata, non è male, un pochino più melodico secondo me rispetto agli altri, però ci sta, bisogna farci un attimo l'orecchio, ma non è male, l'ambiente dark classico dei Tre Allegri Ragazzi Morti persiste e grandi, grandi, sempre grandi. Contrapposto all'ultimo CD dei Tre Allegri Ragazzi Morti, parliamo invece del primo fumetto di Davide Toffolo, disegnato sulla sceneggiatura di Giovanni Mattioli, si intitola Piera degli Spiriti, e parla appunto di questa Piera, una ragazza di 18 anni che perde sua zia o sua nonna, non ricordo, che comunque per lei era più che una zia, più che una nonna, quasi una sorella, una madre, un'amica, tutte queste figure, e persiste, c'è sempre questa malinconia in tutto il fumetto, l'assenza di questa figura, e lei si rifugia nelle amicizie, nel divertimento, nelle giornate al mare, però poi alla fine il vero sollievo lo riesce a trovare solo con la musica. Questo è un tema che ricorre sempre anche nelle canzoni Tre Allegri Ragazzi Morti, e in cui Toffolo ci lavora sempre tanto. Questo fumetto secondo me si riconosce tantissimo il tratto di Toffolo, ma si vede che è ancora agli inizi, che è un po' acerbo, e il classico fumetto bianco e nero con anche dei grigi, e a parer mio è meglio quando lavora solo sul bianco e nero, perché a me piace la linea netta e il chiaroscuro, non so, mi lascia un po' così, soprattutto su questi fumetti. Comunque, beh, lo stile è il suo assolutamente, anche se non è propriamente il Toffolo che conosciamo oggi, che vediamo oggi nei suoi disegni. È abbastanza più, non so, più lavorato, mentre invece oggi è più sintetico e si vede moltissimo che è cresciuto. Qua, non so, io interromperei quasi, vi lancerei il prossimo pezzo, perché tra poco parliamo di un fumetto molto simile, molto molto molto simile, ma molto più moderno, perché è uscito quest'anno per Tinue, si chiama Doom Boy. Adesso vi lascio con Mir, con il pezzo Nessuno, una canzone bella carica, ci risentiamo dopo e parliamo di Doom Boy. Nessun timore, solo il sospetto di non saper avere. Nessuna resa, nessuna mira, solo mi aspetto un'altra via di uscita. Nessuno scoglio può far finire il sodalizio tra un'ancora ed il mare. Nessun appiglio e alcun accordo, siamo all'interno di un caravanserraglio. Pellegrino, dovunque adesso sai che il mondo lo ricorda. Belli, belli, belli, belli, belli, ci piacciono i Mir. Allora, stavamo parlando di Toffolo e del tema dell'adolescenza nei fumetti. A questo proposito vi voglio parlare di un fumetto che ho scoperto la scorsa settimana quasi per caso, perché tramite Facebook sono riuscito a vincere un 15% di sconto da un acquisto online per un qualsiasi prodotto della Tunue, una casa editrice italiana che propone molti molti molti titoli secondo me molto interessanti, e grazie a questo sconto mi sono lanciato nell'acquisto di Doom Boy e di Libero. Di Libero forse parleremo un'altra volta, invece vi parlo di Doom Boy, che ho letto il giorno stesso che mi è arrivato, letto in treno di corsa perché mi incuriosiva moltissimo, mi incuriosiva la copertina che come colori, come disegno mi è piaciuta subito molto. Questo fumetto parla sempre di un ragazzo, dell'adolescenza, della musica e della forza che ha la musica quando si perde una persona cara. Appunto, questo protagonista, che si chiama Id, perde la sua fidanzata, non si capisce bene per quale malattia. Fatto sta che si rifugia nella musica, si mette a suonare sulla spiaggia e, senza farlo apposta, con un suo amico trasmette la musica che lui fa per radio. Lui vorrebbe trasmetterla alla ragazza che ha perso, alla ragazza che gli era cara, e invece finisce che tutti i ragazzi della città che sono nel giro della musica, dei gruppi, lo sentono e lo riconoscono come Doom Boy. Lui si fa chiamare Doom Boy, nessuno sa quale sia la sua vera identità e, insomma, ha un grande successo. Tutti gli appuntamenti in cui lui si ripropone alle 5 del pomeriggio, all'orario prefissato, sono tutti lì ad ascoltarlo, tutti prontissimi, tutti supercarichi dalla musica che fa lui, e lui, senza sapere, ripropone ogni volta qualcosa che lascia tutti attoniti, a bocca aperta. È molto interessante, il finale è quasi da shock, c'è anche un po' il tema dell'omosessualità che ritorna, è trattato in modo abbastanza interessante, quindi ve lo consiglio. Al di là di questo, a me è piaciuto moltissimo per i disegni, molto sintetico, un tratto molto pulito, anche se graffiato, come dire, un po' in stile GP, se qualcuno lo conosce, però non tanto realistico, quasi direi grottesco, quasi umoristico, con le ambientazioni molto molto cupe, tutto molto sul giallo, sull'azzurro. Emozionante, io l'ho trovato veramente emozionante e, insomma, ve lo consiglio se vi capita di vederlo in libreria. Si chiama Doom Boy di Tony Sandoval, prendetevelo se vi capita, molto molto molto bello. Adesso ci ascoltiamo ancora un pezzo, sono i Victoria Caffè con Sunday Walk, e noi ci risentiamo dopo e vi racconto qualcosa per come disegnare quando siete in giro, quando siete a spasso e non avete la carta. I Victoria Caffè, a dopo. Shake for months and no morning. Who's watching on the phone? She said, no one is at home again, born in here. Can't really get who's calling. I ran in the car, swimming. Says yes anyway. She says, good sense of humor. I'll meet you in 1 hour, just don't be late, don't be late. Tell me, will I just sleep again tonight? I need to face the sunlight. Skin is turning white, let's have a walk. We'll be right back. in here, but sometimes I miss my dear, my only reason for not being sad, reason for not being mad around that cafe. Tell me, when I just leave again tonight, I need to face alone. Let's find out what is right, let's have a sera ci ha scelto veramente una scaletta che spacca. Allora, vi ho promesso che vi avrei parlato di qualcosa di particolare, di un po' di tecnica. Avete un tablet Android, e vi piace disegnare e volete sperimentare il disegno sul tablet? Allora, ci sono un sacco di applicazioni che vi permettono di farle, di schizzare sul tablet. Ve ne dico alcune: c'è Sketch Free, Sketchbook Mobile, Draw Something Sketch, insomma, se cercate Sketch sul Play Store di sicuro qualcosa trovate. Però il problema è che con queste applicazioni poi bisogna disegnare con le dita e non so voi, ma io non mi trovo granché bene, sì che io l'ho provato solo sul cellulare, quindi lo schermo era ridotto, però se avete un tablet e se vi interessa cominciare ad avvicinarmi al disegno digitale, potete provare ad acquistare una stylus, una di quelle pennette che simulano il touch del dito, che però ovviamente si possono impugnare. I prezzi più o meno variano dai 10 ai addirittura 60 euro, ma insomma, se volete provare da 10 euro in su, ci sono delle cose più che buone. Si tratta in sostanza di penne in cui a un'estremità hanno un coscinetto che simula il touch delle dita, quindi non sono granché precise e beh, poi dipende dal tablet, dalla dimensione dello schermo eccetera, però è interessante, secondo me per avvicinarsi non è malaccio. Come vi dicevo, ci sono diverse fasce di prezzo e io so per sentito dire che una delle migliori è la Bamboo Stylus, mi pare si chiami, che costa intorno ai 30 euro, non tanto di più. Comunque provate, male non fa. Se invece volete proprio lanciarvi, il meglio sarebbe il Galaxy Note della Samsung, che vabbè, a parte quello ha il touch con la penna, lo stylus, con i livelli di sensibilità, quindi tanto più voi schiacciate, tanto più sarà grosso il tratto, che questo invece non succede con le stylus comprate a parte. Questa è una cosa interessante ed è molto interessante perché la tecnologia è sviluppata dalla Wacom, che è la stessa azienda che produce le tavolette con cui lavorano tutti i professionisti, con cui lavoro anch'io, e pare che addirittura la Wacom voglia fare un tablet a questo scopo, proprio per il disegno, e se ne parla per il prossimo anno. Io non so dirvi di più, non sono un gran tecnico, sono solo un appassionato, però se volete lanciarvi prima di acquistare una tavoletta, prima di cominciare a disegnare, questa è la strada. Ci sentiamo ancora un pezzo e bene, questi sono i Monster Brother con Babylon Bridge. A dopo. Un sacco anche loro, fantastici. Allora, prima abbiamo parlato del disegno digitale, dei tablet, noi adesso siamo sul finire e vi anticipo che la prossima puntata magari la puntiamo un pochino di più sul tecnico, magari parliamo un pochino di più sulle delle tecniche di produzione di fumetti, magari ci lanciamo anche sul digitale, vi spiegherò qualcosa in più sulle tavolette grafiche, su come si usano, su come funzionano. E beh, abbiamo in programma una pagina di Strip Trip su Facebook, quindi cercateci, io cercherò di postare gli argomenti della puntata in diretta, cioè mentre voi ascoltate la radio magari potrete trovare i contenuti anche su Facebook. ci saranno aggiornamenti, magari video, vi posterò dei tutorial e soprattutto la cosa che mi interessa assolutamente di più è che voi scriviate quello che pensate del programma, se per caso volete che io parli di qualcosa o se avete bisogno di un consiglio per un acquisto, per non so, iniziare un lavoro, un disegno, qualsiasi cosa, se non lo so, qualsiasi cosa vi venga in mente, qualsiasi cosa pensiate che io possa aiutarvi con qualche consiglio, sono qua, nessun problema, voi scrivete, io nel limite del possibile risponderò prima su Facebook e se l'argomento è interessante anche nel programma. Che dire, sono felicissimo di essere qua ancora oggi per la seconda puntata, spero ci risentiremo presto e buona serata, buona settimana a tutti e alla prossima. Questo è Christopher Square, Invisible to You. Anything good to say? Sometimes I feel like I wanna throw it all away. Well, my head keeps pounding, and these words just won't come out right. Sleepless night, oh, yes it is now, baby. I'm going out of my head. I know there's something unsaid. And through it all, I feel like I'm almost invisible. Deaf to me, and my idol's small talk really doesn't mean a thing. It's like trying to get through an overcrowded city street. Got the best of me. Oh, yes, you did now, baby. I'm going out of my head. I know there's something unsaid. Feel the same. You always needed more, more. Yeah. I'm going out of my head. I know there's something unsaid. And through it all, I feel like I'm almost invisible. Avete ascoltato Strip Trip, un viaggio nel mondo dei fumetti con Alessandro Chiarella, in onda ogni domenica alle 21.